Dove ho messo il foglietto? C'era un fogliettino qua. C'è un fogliettino con sulle cose che devo dire. Dov'è? Ecco qua. Ciao, sono il DJ Ariele. Sono le 7 del mattino. Buona giornata. Con entusiasmo. Buona giornata! C'è anche Mister Spadino. Tu non c'hai bisogno di dire buona, di buona giornata con entusiasmo, Spadino. Più entusiasmo! E poi c'è un'altra cosa che devo dire. Sigla. A posto? Posso andare? Ah no, devo star qua fino alle 9. 2 ore? No, gnafo. Gnafo! Pane, burro e rock and roll. Però la tua colazione rock. Già sentire la sigla un po' mi piglia pane, bene. Pane, burro e rock and roll. Ah sì, mi piglia bene la sigla di pane, burro e rock and roll. Mi sveglia. Buona giornata. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Potrebbe essere martedì 12 febbraio 2008, l'anno della svolta. Così recita il nostro calendario. 2008, l'anno della svolta, con immagine, siamo a febbraio, abbiamo Abbey Road con Faulisi, Travis, Frick Antoni e Lariele che attraversano la strada. Che roba, ragazzi. Hai visto, Spadino? Sono un attore, eh? Io ho delle capacità recitative, sì. Non te ne eri mai accorto? Potrei sperare in una carriera, che ne so, nella fiction televisiva. Perché no? Mi vedresti bene? Potrei fare un carabiniere. Oppure un prete. Perché no? Potrei fare un po' di tutto, eh? Ho l'asso nella manica della recitazione, sì. Metodo Stanislavski. 7:03. Oh, che bello essere qui negli studi di Rock FM. Ah, anziché essere sotto le coperte a roncarsela di brutto. Ma è un piacere svegliarvi. No, non voglio farvela pesare. Assolutamente, lungi da me il pensiero. Anzi, ho l'inizio della puntata di quest'oggi che a onor del velo è la 181. C'è un filone di interazione che mi piace parecchio. Dei radioascoltatori che confessano. Medaglia. La loro posizione di sfavore rispetto agli altri. La lettura di questi sms aiuta gli altri. Nel senso che sapere che c'è gente messa peggio di voi aiuta, fa bene, dai, ammettiamolo, è positivo. Il primo saluto va a Davide FDM, così si firma. Il messaggio mi arriva alle 6:44. Buongiorno Ariele. È dalle 4 di stamattina che sono sveglio perché la mia bambina di 10 mesi ha la tosse. Mi aspettano tante ore di duro lavoro. Per fortuna ci siete voi di pane, burro e rock and roll. E quindi per tutti voi che avete appena da poco aperto gli occhietti, pensate al nostro buon Davide che è dalle 4 alle prese con la tosse santa della sua piccola bambina. Inizio forte, Spadino, eh? Inizio forte. Oh, tenero. Posso cantarla tutta? Però non so tutte le parole. Però posso fare gna gna gna. And her nanny has told you to sew. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through the silver screen to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. Da-da-da. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus some space boy fighting in the dance hall. Their life on Mars. brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote a song. Space Boys marching in the dance hall. Life on Mars, David Bowie. Scusatemi, è solo l'inizio, non lo faccio più. Era solo per iniziare bene. Una chiusura di canzoni di quelle così, no? Che dici, come la chiudiamo? La chiudiamo secca o facciamo una scalata di archi che parte da qui e arriva di là? No, facciamo una scalata di archi che parte da qui e arriva di là. E così si chiude una bella canzone. Ciao dall'Ariele, se è la prima volta che vi sintonizzate su questa stazione radiofonica, di solito non parliamo mai sui pezzi, non cantiamo mai sui brani, no, okay? Perché quelle sono cose che fanno le radio provinciali e noi, la nostra non è una radio provinciale, è una piccola frequenza radiofonica ma che crede molto nelle sue potenzialità. Saluto anche Gianluca a Milano che scrive "stai muto". Infatti mentre ero lì che me la cantavo dicevo, ma nessuno scrive a insultarmi, che è stamattina tutti gentili. Ricordo che non è colpa mia, è colpa di quel babano di Spadino che tiene il microfono acceso. Lo fa per invidia, medaglia, medaglia, medaglia, perché io sono lo speaker e tu sei il tecnico, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Eh? Vi ricordo le coordinate per interagire con noi di PBR. Per costruire questa puntata 181 insieme abbiamo un sms che è il 335 100 77 77. Abbiamo una casella di posta elettronica che invece è ariel@radiorockfm.com. Siete un gruppo d'ascolto particolare? Segnalatecelo. Siete dei veri rocker? State facendo qualcosa di terribilmente rock? Ditecelo. Che siamo su Rock FM, Pane, Burro e Rock and Roll si occupa anche di queste cose. Però io ho un appunto sulla mia scaletta in onore agli amici frazionati, a coloro che ascoltano solo pezzetti di questa trasmissione radiofonica. Stamane è il turno di Stairway to Heaven col Kazoo per voi della prima ora. Fossi in voi non la perderei per nulla al mondo. Heard it from a friend who, heard it from a friend who, heard it from another, you've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend, they're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good, and the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby, if that's the way you want. Don't believe it. coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want. Buongiorno, nonostante salve. L'ora, salve, antelucana, io, scusate questo termine, esatto, così, così imprevisto, così improprio a quest'ora del giorno. Lo dica quando vuole. Posso dirlo? Certo, antelucana, se la sente. Antelucana. Ma lei ha un foglietto rosa in mano. Sì. Un foglietto rosa, anche un po' strappatiello, sì. Tutto così stropicciato, sì. Perché in metropolitana io scrivo. Bravo, scrivo. Complimenti. Oltre a chiedere soldi. Oltre a chiedere soldi, perché è un momentaccio, anzi, se volete spedire qualcosina qui alla radio. Ad ogni modo, ho scritto una riflessione, una poesia dedicata all'almanacco. No, che bello. La prego. In diretta radiofonica, Roberto Fricantoni, ode all'almanacco. Non c'è ironia nelle mie parole, maestro, prego. No. Birbantello. Se ti pare un martedì da svacco, non disperare. C'è sempre l'almanacco e puoi, sì, puoi passare al contrattacco, perché hai dalla tua l'almanacco. Veramente non ho parole, un 12 di febbraio che adesso sì, finalmente brilla. Cosa ride, Frick? Lei non ci crede, non crede ai miei complimenti, ma è veramente uno scandalo. Interessante, no, mi è piaciuta questa prova poetica che mi ha permesso di dare fondo a tutto il mio lirismo, grazie. Almanacco del 12 di febbraio 1892, Dmitri Ivanovsky ipotizza per primo l'esistenza dei virus. Dei virus? Sì, non dei quelli virus. Dei computer, i virus quelli... Quelli veri, malattie. Quelli delle malattie. Sa che per un certo periodo ho fatto fatica e confondevi i virus con i batteri. Poi l'è passata? Poi ho rinunciato, ma ancora avrei bisogno di alcune spiegazioni. Ci fosse un virologo in ascolto che potesse spiegarcelo, grazie. Ne saremmo molto interessati. 12 febbraio del 1924 esce il primo numero del giornale L'Unità, fondato da Antonio Gramsci, organo del Partito Comunista Italiano. Cosa fa Frick? Cosa sale? Sale sul... No, su... era per dare un po' di enfasi alla notizia, ma... Sì. E la vuole dare sul tavolino di Rock FM? No, scenda così, Roberto, insomma, è storia dello stivale, insomma, è come tale va sottolineata, così come non possiamo mettere... Una curiosa notizia, esatto, che ci segnala la redazione, legata al 12 di febbraio del 68, un certo Jimi Hendrix viene insignito del diploma onorario di scuola superiore, sì, dell'Istituto Garfield di Seattle, che aveva dovuto lasciare all'età di 14 anni, quindi un diploma honoris causa. Cosa fa? Aiuto. Ma sappiamo benissimo che in questo istituto, l'Istituto Garfield, esatto, di Seattle, non era la sola rock star. C'era qualcun altro? Sì, anche il famoso omonimo Gatto. Un bel applauso al gatto. Mannaggia, va bene. 1900 le vengono così spontanee, sì, di mattina, sì, carbura bene mattina. 1983, Ozzy Osbourne, sì, vede annullato il suo concerto a Scranton. Già porta una certa sfiga, secondo Scranton in Pennsylvania, nonostante le migliaia di biglietti venduti, perché il direttore del locale, un certo Rev, che presumo stia per reverendo Richard Kzakor, che anche il soprannome non è, lo taccia di attività sataniche e crudeltà sugli animali. Povero Ozzy. Povero Osbourne, il quale ha detto però più volte, io mi sono informato, ho letto i giornali specializzati, che ha esagerato questa sua immagine così di satanico. In realtà lui non è l'anticristo, non ha mai ferito alcunché, anche perché se avesse veramente addentato un pipistrello sarebbe morto per leptospirosi. Esatto. E quindi, e dunque è tutta una montatura pubblicitaria, suonare, e promozionale, sì. Poi avevano già venduto i biglietti, porca miseria, io sarei scappato con la cassa. Ottima idea, dovrebbe chiamare il reverendo, chissà se se li ha tenuti i soldi. No, li avrei dati. Proviamo. Redazione rintracciata il reverendo Kzakor. I am the god of hellfire and I bring you. Quel mattacchione di Arthur Brown e la sua Fire. Non troverete altri trattamenti così precisi, così amorevoli nei vostri confronti a quest'ora della giornata. La colazione di pane, burro e rock and roll, in diretta fino alle 9 con la nostra squadra. Allora vi ho avvisato, le Zeppelin con Cazù. Non capita spesso di ascoltarli nella prima ora della nostra trasmissione, ma grazie a Spadino, che è in grado di utilizzare le macchine messe a sua disposizione dalla struttura Rock FM, possiamo recuperare alti pezzi di radiofonia andati in onda nella seconda ora e recuperarli nella prima. Nella prossima mezz'ora partiremo con questo classico della produzione Pane, Burro e Rock and Roll, per l'appunto Stairway to Heaven rivisitata col kazoo. Questo per rivalutare anche lo strumento kazoo, che spesso e volentieri viene tacciato come strumento fastidioso, rumoroso. Invece noi di Pane, Burro e Rock and Roll crediamo nella dolcezza del kazoo come strumento di nicchia. Ecco, va bene. Loro si chiamano The Blues Brothers e ci gustiamo questa qui. Yeah, Sweet Home Chicago. Per tutti il gruppo d'ascolto alla toilette, eh?